la società fornisce dei pacchetti entro cui mettere le emozioni e dargli un'interpretazione stereotipata. Per esempio, non mi realizzo sul lavoro e quindi sono infelice. Quindi l'infelicità dipende da che non mi realizzo sul lavoro. È chiaro che appare assolutamente sensata questa affermazione all'interno di un luogo come il nostro, dove viviamo noi. La realtà, se andiamo in profondità, è tutt'altra, cioè io non mi realizzo sul lavoro perché sono infelice. È proprio perché sono infelice, quindi ho il cuore chiuso, non riesco a vedere che cosa sta succedendo intorno a me, non vedo dentro di me quali sono le mie qualità, non vedo il mondo esterno, sono cieco e conseguentemente mi comporto da cieco. Il cieco sbatte, non trovano la strada. E poi non mi realizzo sul lavoro, perciò sono infelice. Quante persone non si realizzano sul lavoro? Sono tantissime, quindi non sei tu infelice, c'è una massa di persone che sono infelici, ma io non mi interesso degli altri, questo è il tuo problema, non è perché sei infelice sul lavoro, è perché sei separato. E così via. Quindi usare il metamodello 2 va alla radice del senso di separatività e quindi di un uso distorto perché univoco della ragione, perché un uso eccessivo della ragione rispetto a quello che è il mondo dove nascono le emozioni, che non è la ragione, è il luogo dell'indifferenziato. Una parte di emozioni nascono nel luogo dell'indifferenziato e quindi nel luogo dell'emisfero destro.